l'altra Europa. Buon sabato da Federico Daddia, 8 minuti dopo le 12, siamo in diretta con, su Radio 24 con l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato alle storie, alle persone, alle opportunità e alle possibilità dell'Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. L'attualità politica ed economica viene narrata giorno per giorno qui a Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, rendendo appunto protagoniste le persone, le storie, le opportunità. Come trovarci anche sui social network? Le coordinate Euronet Plus R24 oppure il mio account personale @ Federico Taddia su Twitter e su Facebook, le nostre pagine digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, oppure radio24.it nella sezione L'altra Europa, lì trovate anche tutti i contenuti extra. Oggi tante storie, oggi giocheremo molto con le città, con tanti progetti europei che si stanno realizzando proprio in queste ore. Partiamo parlando di crisi ed infanzia. A Roma sono diventate troppo costose, molti ragazzi non possono più permettersi di frequentarle, il biglietto di entrata è fuori dalla nostra portata e ci sono pochi spazi dove possiamo giocare. Questo è il messaggio che Giulio, Jacopo e Valerio, tre adolescenti di Roma, hanno scelto per il loro video dedicato agli effetti che la crisi economica sta avendo sulle loro vite. Il video è uno dei 36 girati in 8 città europee, è un progetto del Consiglio d'Europa e dell'ENOC, la rete europea dei difensori civici dei minori, intitolato l'austerità morde. Queste sono le voci dei bambini, c'è anche una mostra che è organizzata in tutti i palazzi dell'organizzazione paneuropea fino al 26 giugno e tutti questi video sono stati caricati sul canale YouTube del Garante per l'infanzia, garanteinfanzia.org il sito per trovare tutte le varie divagazioni. Ma abbiamo con noi alcuni dei protagonisti che hanno partecipato a questo progetto. Intanto c'è Stefano Zita, che è uno degli studenti che ha realizzato alcuni dei documentari di Austerity Bite. Ciao Stefano, benvenuto. Buongiorno. Classe quarta dell'Istituto Informatico Antonio Genovesi di Roma, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Salvini di Roma. E poi c'è Stefania Pizzola, che è funzionaria area diritti dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescente ed è referente attività all'interno della rete europea ENOC. Buongiorno Stefania, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Parto da te Stefania, crisi e adolescenza, crisi ed infanzia, come mai avete scelto di mettere il focus proprio su questo binomio? Allora, è stata una scelta molto naturale. Ogni anno la rete europea dei garanti per l'infanzia individua un tema centrale sul quale sviluppare due linee di attività. Uno, una linea di approfondimento che porta a fare poi dopo documenti che vengono inoltrati alla Commissione europea, al Consiglio d'Europa, piuttosto che ai governi dei vari paesi. E l'altro è invece ascoltare i ragazzi, capire qual è il loro punto di vista sull'argomento e diffondere del loro punto di vista. Nel 2013 venivamo da una iniziativa della Commissione europea che era una direttiva che voleva proprio sottolineare l'importanza di mantenere anche in tempo di austerità un'attenzione specifica per gli investimenti e le politiche dell'infanzia. Quindi gli stati si sono interrogati su come farlo, se era possibile farlo, e la rete dei garanti ha deciso di prendere questa iniziativa iniziativa e rispondere con il punto di vista degli adolescenti di 8 paesi europei. La rete dei garanti europei è composta dai garanti di 34 paesi, di tutto il Consiglio d'Europa, quindi va oltre i confini della Commissione, della Commissione europea. È stato veramente molto importante ascoltare il punto di vista di tanti di loro. Stefano, scusa Stefania, sentiamo appunto la voce di uno dei protagonisti. Stefano, tu hai 17 anni e la crisi ha cambiato la tua vita, o la crisi è una cosa appunto che l'hai letta sui giornali, ne hai sentito parlare ai telegiornali, in famiglia, o ti sei accorto che ha influito comunque sulle tue tasche, sulle tue abitudini? Guardi, sì, sicuramente le posso dire che ho notato un cambiamento sia nella mia vita personale, ma anche nella vita di tutti i giorni di altre persone, nella situazione proprio della vita di tutti i giorni, come si vede il mondo. Ho notato un cambiamento che comunque, essendo nato in un periodo che si poteva definire in un periodo in cui si stava abbastanza bene economicamente, adesso ho notato comunque che c'è stato un peggioramento della qualità della vita per tutti, diciamo. E questo è stato facile raccontarlo con un video, che poi è il vostro linguaggio, insomma. Diciamo che chi ci ha supportato nel fare il video erano persone molto qualificate, quindi ci hanno aiutato, abbiamo trovato delle idee interessanti che potevano far comprendere in maniera con delle forti emozioni quello che noi viviamo in tutti i giorni, quindi sicuramente è stato molto importante avere delle persone qualificate che ci hanno aiutato a fare questo lavoro insieme per far vedere anche a altri come si vive nella vita di tutti i giorni, ecco. E poi non solo avete realizzato il video, ma avete visto anche i video realizzati da coetanei delle altre nazioni. C'è stato qualcosa in particolare che ti ha colpito di quello che hai visto oltre confine? Sì, devo dire che specialmente i video fatti nello Stato greco erano molto forti, molto toccanti, in quanto facevano vedere come uno Stato che fa parte dell'Unione Europea comunque si trovi in una situazione molto triste, che non neanche sembra uno Stato europeo, sembrerebbe uno Stato del terzo mondo, diciamo quasi. Grazie Stefano per la tua testimonianza. Stefania, ricordiamo garanteinfanzia.org, enoc.eu per tutte le informazioni. Il tema di quest'anno è la violenza, quindi si riparte con un nuovo progetto, nuovi video, nuovi ragazzi coinvolti. Sì, ci saranno una serie di laboratori sempre in diversi paesi europei e alla fine verrà prodotto questa volta un video unico che racconterà non solo il punto di vista dei ragazzi sulla violenza, non abbiamo voluto dare una definizione, saranno i ragazzi a declinarla così come hanno declinato l'austerity, e verrà fatto un video unico, verrà registrata, diciamo, offerte anche delle competenze ai ragazzi per riuscire a comunicare verso l'esterno il loro punto di vista, perché è assolutamente fondamentale che loro abbiano tutti gli strumenti per poter partecipare attivamente e dire la loro sulle decisioni che vengono prese e che li riguardano. Sottoscriviamo tutto ciò. Grazie davvero Stefania, buon lavoro. Grazie, complimenti. Grazie mille, grazie. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Votate la moneta commemorativa per i 30 anni della bandiera europea. La bandiera europea compie 30 anni. Per celebrare il 30° anniversario del vessillo, i paesi dell'Unione emetteranno una moneta commemorativa. Tutti i cittadini residenti in Europa sono invitati a partecipare ed esprimere la propria preferenza fra i 5 bozzetti in competizione. Se parteciperete alla votazione, potrete vincere uno dei 56 premi in palio, che includono anche un iPad e una vacanza in un paese europeo di vostra scelta. Fino al 27 maggio 2015 potrete esprimere la vostra preferenza sul sito coin-competition.eu. L'altra Europa. This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in. Talking about freedom. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Questo è il primo articolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e proprio da questo articolo comincia la riflessione di Dino Aloi e dell'economista Thierry Vissol, autori di un ebook appena pubblicato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea intitolato La libertà di espressione in Europa. Di cosa si tratta e quali sono i contenuti? Ce lo spiega uno appunto degli autori. È con noi il consigliere speciale media e della comunicazione presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Thierry Vissol. Ciao Thierry, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Un ebook appena presentato, un ebook ricco di contenuti, un ebook che nasce... È anche gratuito. È anche gratuito, poi ci darai anche le coordinate per scaricarlo, che nasce dopo la strage di Charlie Hebdo, sulle riflessioni soprattutto che sono nate dopo quella strage. Come mai l'esigenza di ragionare sulla libertà di espressione in Europa e qual è il focus del vostro lavoro? Diciamo che la strage di Charlie Hebdo, che non è assolutamente il tema del libro, ma è quello della libertà di espressione, appunto ha messo il focus su questa problematica di sapere che cosa si può dire e come si può dire, cioè la libertà, come l'ha ricordato, è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tuttavia questa libertà, che è limitata in un certo modo anche dalle legislazioni, per esempio non c'è possibilità di insultare qualcuno gratuitamente o delle cose di questo genere, ci possono essere anche dei limiti dovuti alla sicurezza pubblica o dei limiti di questo genere, ma a priori la libertà di espressione in termini di critiche delle religioni, delle persone, delle politiche, dei governi, eccetera, è qualcosa che è assicurato. Mm-hmm. La problematica è che appunto adesso come adesso ognuno ha una visione che può essere diversa dell'altro, perché entrano in conto anche degli elementi come la tolleranza, il rispetto, la responsabilità dell'editore, eccetera. E quindi quando cominciano ad essere delle minacce esterne, diciamo come il terrorismo, su questa libertà di espressione, allora la gente comincia a dire: ma erano veramente responsabili, per esempio, la gente di Charlie Hebdo di aver pubblicato questo? E questo veramente è la tolleranza vis-à-vis di tutti gli altri? Mm-hmm. La problematica è che dei temi come tolleranza, come rispetto, sono dei concetti polisemici, cioè hanno un senso che dipende moltissimo dalla sua propria sensibilità, delle sue proprie idee. E quindi si pone il problema di sapere se dobbiamo introdurre dei limiti alla libertà di espressione dovuto per esempio a queste idee di tolleranza o di rispetto, ma chi va a definire quali sono questi limiti? Chi va a imporre? E quali saranno i problemi? E quindi questo libro è una riflessione appunto su queste tematiche, partendo dal diritto che esiste e delle sue limiti che sono definiti nei trattati internazionali e nel trattato sull'Unione Europea, che sono dei temi legali. Quali sono i temi non legali che possono introdurre dei limiti e perché e come? Thierry, è un po' la tua storia, perché insomma chi crede nell'Unione Europea poi si trova nelle sue mille sfaccettature sempre comunque a doversi scontrare con i confini e con i limiti, vero? Sembra paradossale, ma è un ritorno. Sì, diciamo che ci sono elementi che sono, per esempio, le limiti che sono dati dai fiumi, dalle montagne, dalle mari, dai mari, sono dei limiti che non hanno problemi. Invece i limiti in termini di pensiere sono tutta un'altra cosa, che dipende tantissimo, diciamo, dello stato del tempo, dell'umore, della politica, della cultura, certo. Leggendo un po' solo che Direi solo che avere paura di dire qualcosa, non si deve avere paura. E là ricordo quello che diceva Sharda, appunto, di Charlie Hebdo, sì. Meglio vivere in piedi che in ginocchio. Sì, c'è tanto dietro a questa frase. Sfogliando l'indice, la libertà di espressione nelle politiche europee di Lucio Battistotti, libertà di espressione o diritto europeo di Evelina Jelenkowska, c'è il nostro amico Giampaolo Accardo che parla di libertà di stampa e libertà di espressione, il punto di vista di un caporedattore. E Thierry, prima di salutarci, tu tocchi appunto il tema fondamentale della satira in questo capitolo, la satira fondamento della democrazia europea. È un'affermazione forte a cui io credo veramente. Sì, il ruolo della satira è di andare oltre i limiti, perché appunto fa il focus su qualcosa di in una maniera esagerata, in una maniera caricaturale, ma appunto è il ruolo della satira. Quindi se la satira comincia a porsi dei limiti, allora non è più satira. Sì, è altro. Allora, ec.europa.eu, da lì nella sezione Italia, libertà di espressione, potete trovare come scaricare gratuitamente, ci teniamo davvero a sottolinearlo proprio per l'importanza del contenuto di questa bella riflessione, libertà di espressione in Europa, l'ebook presentato e pubblicato dalla Commissione, dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Grazie Thierry, complimenti, ottimo lavoro. Grazie Federico. Ciao, buon sabato. Europost-it. European Glass Experience. Attenzione amanti dell'arte e dell'artigianato, al Museo del Vetro di Murano è in corso la mostra European Glass Experience. La manifestazione, che è nata proprio per valorizzare l'artigianato vetrario nell'arte contemporanea, ha visto il coinvolgimento di 22 paesi europei rappresentati con opere di 78 giovani artisti e contributi di artisti argentini, israeliani e turchi. Oltre a numerosi bozzetti, a Murano sono esposte 60 opere, di cui 20 realizzate dai maestri vetrai del Consorzio Promo Vetro Murano, concessionario del marchio Vetro Artistico Murano. La mostra è frutto del progetto pluriennale European Glass Experience e rimarrà aperta fino al 7 giugno. Per tutte le informazioni visitate il sito museovetro.visitmuve.it. Questo inno alle montagne, introduciamo il prossimo argomento. Parliamo del Giro d'Italia, ma niente bicicletta, parliamo di un partner importante, un certo partner del Giro d'Italia, che è il programma europeo delle Alpi. Esiste questo programma e si chiama HEALP, è un programma il cui scopo è la conservazione degli habitat e delle specie alpine, la gestione sostenibile delle risorse naturali e quindi anche del un turismo, un nuovo modo di fare turismo, un turismo che sia un turismo rispettoso dell'ambiente, non che sia un turismo che vada a consumare l'ambiente che occupa. Di tutto ciò ne parliamo col direttore del programma europeo delle Alpi, HEALP, Sergio Savoia. Buongiorno Sergio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie per questa ospitata che mi fa veramente piacere, perché mi permette poi di illustrare un pochino quello che facciamo. Infatti, intanto ci riesce a sintetizzare quella che è l'attività di questo progetto. Sembra facile, va bene, sì, difendiamo le Alpi, certo, chi non è d'accordo? Assolutamente. Qual è invece il vostro percorso? Come operate? In teoria sono tutti d'accordo, poi nella pratica che casca l'asino, no? Ma diciamo, hai già detto molto bene tu, noi siamo un programma internazionale del WWF che coordina il lavoro di conservazione della natura alpina tra le organizzazioni nazionali del WWF. Il WWF è organizzato un po' come una holding, quindi c'è WWF Italia, WWF Svizzera, Francia, Austria, Germania, eccetera, eccetera. Ebbene, questi WWF che condividono lo spazio alpino si sono messi d'accordo, hanno costituito un programma internazionale e questo programma si chiama appunto European Alpine Program, programma europeo alpino, il cui scopo è sostanzialmente quello che hai spiegato tu in apertura, cioè si tratta di cercare di risolvere i problemi che ha la natura con un approccio transfrontaliero, transnazionale, perché i problemi, non so, il riscaldamento climatico piuttosto che il turismo non sostenibile, non si fermano alle frontiere amministrative o politiche, certo. E quindi anche la risposta deve essere internazionale. Perfetto. Sergio, ti chiediamo 2 minuti di pazienza, ci fermiamo per la pubblicità, poi rientro da te e ci racconti di questa bella collaborazione, certo, con il Giro d'Italia. A fra poco. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, questa è sempre Radio 24 che vi racconta l'Europa delle persone, delle opportunità e delle possibilità. In questo momento siamo in collegamento con Sergio Savoia, direttore del programma europeo delle Alpi, con cui appunto stiamo scoprendo questa particolare partnership con il Giro d'Italia. Sergio, come avete scelto di abbracciare il Giro per raccontare il vostro progetto? Ma guarda, come probabilmente sai, ogni anno c'è una charity, un'organizzazione che non ha scopo di lucro, che ha una partnership con Giro d'Italia, con RCS, e quest'anno ci siamo trovati e abbiamo spiegato un po' il nostro progetto agli organizzatori del Giro d'Italia, e naturalmente gli è piaciuto molto, anche perché il Giro d'Italia è anche una corsa alpina. Non credo che ci sia bisogno che io ricordi le grandi classiche in cui i corridori si sono arrampicati su per le Alpi, hanno lasciato l'anima e hanno anche scritto delle pagine epiche. Ebbene, per noi questa partnership col Giro d'Italia era, devo dire, quasi naturale, perché ci occupiamo di Alpi, ci occupiamo anche di animali che sono simbolici, che sono animali anche molto, come dire, leggendari, come per esempio il lupo, l'orso, e quest'anno, guarda caso, ma non è un caso, da quest'anno la mascotte del Giro d'Italia è Wolfie, questo lupacchiotto di peluche che anche la, diciamo così, su tutta la comunicazione del Giro fa bella mostra di sé. Certo. Per noi il lupo è un animale molto importante, ed è un animale che si sposta e che attraversa molte regioni, un animale che compie veramente anche lui il Giro d'Italia, l'ha compiuto nel corso degli anni, partendo dal suo ultimo ridotto appenninico, riconquistando le Alpi e da lì ripartendo in fondo un po' alla conquista di tutto il centro Europa. Ecco, diciamo che è una partnership che era nelle cose, noi siamo evidentemente molto felici che si sia concretizzata quest'anno, mm-hmm, e approfittiamo del Giro d'Italia anche per fare delle cose sul territorio in tutta Italia. Infatti, anche in Svizzera. Ogni tappa di fatto viene scelto un tema e viene sviluppata anche sul territorio. Oggi casualmente il 16 maggio Fiuggi Campitello Matese, si parla dell'orso marsicano in questo caso. Naturalmente, perché una cosa che noi dobbiamo capire molto bene è che in natura appunto non esistono frontiere, o quando esistono queste frontiere sono un problema perché sono delle barriere ecologiche. L'orso marsicano è diciamo anche lui minacciato, così come purtroppo minacciato anche l'orso che è suo parente stretto che si trova sulle Alpi, e la sensibilizzazione rispetto a questi magnifici animali può passare, anzi passa, oggi lo fa per esempio attraverso anche una presenza al Giro d'Italia. Ripeto, questo tema della quella che noi chiamiamo la connettività ecologica, è quindi la capacità delle specie di spostarsi da una regione all'altra per riprodursi, per il cibo, eccetera, eccetera, è un tema che si adatta benissimo al tema del Giro d'Italia. Le specie fanno il Giro d'Italia, a volte lo devono fare, e non solo il Giro d'Italia, ma anche il Giro d'Europa, proprio per esempio per adattarsi alle minacce come il cambiamento climatico, specie che devono spostarsi per esempio dagli Appennini verso le Alpi, proprio perché col cambiamento climatico queste specie cercano nuovi habitat. Certo, penso che mobilità e biodiversità siano due paradigmi fondamentali, sia parlando di Europa nel senso classico del termine, l'Europa delle persone, ma anche l'Europa della natura, e il vostro progetto, il vostro programma appunto sottolinea questo aspetto. alpi.wwf.it il sito per tutte le informazioni. Grazie davvero Sergio, buon giro. Grazie. Ciao, buon sabato. Buona giornata, ciao. Europost-it. Commissione europea. Consultazione pubblica sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea. Nei giorni scorsi a Bruxelles, nell'ambito del Forum sul futuro dell'uguaglianza di genere nell'Unione Europea, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica volta a raccogliere opinioni e contributi utili ad elaborare il programma di lavoro in materia di parità tra donne e uomini dopo il 2015. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate alle tematiche relative all'uguaglianza di genere, alla violenza sulle donne e alle questioni sociali, cioè Stati membri, organizzazioni delle parti sociali, organizzazioni della società civile interessate, organismi di parità e cittadini, a partecipare alla consultazione, che rimarrà aperta fino al 21 luglio 2015. Per accedere, visitate la sezione Public Consultation all'indirizzo ec.europa.eu/justice/newsroom. Hey! E l'arte come colonne portanti, come bombole d'ossigeno di questa Europa, quante volte lo abbiamo detto, ci crediamo e cerchiamo di testimoniarlo ogni volta che ne abbiamo la possibilità. Per fortuna non siamo gli unici a crederlo, non a caso questa sera è la notte europea dei musei, quindi in tutta Europa musei aperti con tantissime iniziative per fare divulgazione culturale comune, quindi tutta Europa che si mette in mostra, veramente tante le iniziative, ne abbiamo scelta una, perché? Perché appartiene a un progetto di cui abbiamo visto la genesi e perché questo progetto oggi fa tappa proprio in Italia, fa tappa a Bologna in occasione della notte europea e quindi volevamo raccontarvelo. Il progetto si chiama Perform Migration, People Are the Territory, la gente è il territorio, un progetto artistico e culturale promosso dall'Università di Bologna e cofinanziato dall'Unione Europea, che cerca proprio di creare questa connessione tra 16 istituzioni internazionali europee e canadesi, quindi si va anche al di là dell'Europa. I temi sono quelli della mobilità, del cambiamento, ma anche della partecipazione attiva nel proprio territorio, nella propria città. Di tutto ciò ne parliamo con Paolo Granata del Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, è uno dei papà di questo progetto. Ciao Paolo, bentornato. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. Cosa vi siete inventati? Ci siamo inventati un'idea per superare alcuni stereotipi, alcuni cliché che a volte si utilizzano quando si parla di mobilità e immigrazione, e abbiamo tentato di affrontare appunto il tema della mobilità con gli strumenti della contemporaneità e in particolare gli strumenti dell'arte. Abbiamo affidato all'occhio e alla sensibilità degli artisti una nuova idea di territorio, laddove appunto si superano i confini geografici e il territorio è fatto invece dalle persone, dalle storie di vita, dalle narrazioni che ci raccontano qualcosa più del territorio in cui abitiamo. Mm-hmm. E a Bologna appunto oggi fa tappa il progetto con al di là appunto dei saluti di rito è l'arte protagonista, l'arte contaminata, nel senso l'arte europea e non solo, che fa tappa in Italia con una videoinstallazione. Tutto ciò verrà raccontato attraverso questa opera, giusto? Eh sì, abbiamo scelto una cornice naturale per Bologna, che è il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli. Nel cuore della città esiste questo museo che racconta la storia della città e il museo ospiterà questa videoinstallazione, questa installazione interattiva che è frutto di un lavoro collaborativo portato avanti in 2 anni da un gruppo di 7 artisti selezionati con un bando pubblico. Insomma, l'installazione darà voce al progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione del progetto. Storie di vita, storie di cambiamento, narrazioni di cosa significa essere mobili oggi, cosa significa traslare la propria identità. Perform Migration, se la parola performance ci ha dato proprio la possibilità di riflettere su quanto siamo chiamati a reinventare noi stessi, su quanto siamo chiamati a reinterpretare il nostro ruolo ogni volta che subiamo o siamo disposti a un cambiamento. E quindi il museo ospiterà da oggi fino al 15 giugno questa installazione interattiva realizzata in particolare dall'artista Hannes Andersson, uno dei 7 selezionati dal progetto. In realtà, oltre all'installazione, esistono nel percorso museale per Formigration ha collocato diversi altri progetti interattivi, sempre con l'obiettivo di osservare i temi della mobilità, dell'identità, del cambiamento, della diversità con gli occhi degli artisti, andando a capire come l'arte e la cultura possono aiutarci ad affrontare questi temi cruciali della contemporaneità. Paolo, quando si parla di città, Europa, mobilità, no? Si pensa alle smart city, si pensa alla sharing economy, si pensa a una partecipazione attiva dei cittadini. C'è un impatto reale dell'arte? Cioè, l'arte riesce veramente a cambiare la nostra quotidianità? L'arte, forse più che cambiare la nostra quotidianità, ci dà modo di anticipare con una particolare sensibilità i cambiamenti. Mm-hmm. Ci aiutano anche, forse l'arte ci aiuta a creare la consapevolezza di cosa significa vivere in un ambiente che cambia. Molti artisti hanno anticipato, hanno presagito cambiamenti in atto proprio grazie a una particolare capacità di vedere le cose in maniera differente, di prendere un oggetto, prendere la tecnologia e metterla all'inverso e riuscire a stravolgerne il senso. Proprio in questa operazione, se vogliamo critica, se vogliamo sovversiva, se vogliamo dirla anche in maniera così assolutamente non stereotipata, ecco, l'arte ci aiuta a vedere le cose in maniera diversa. E forse proprio in questo sì, non cambiare, ma anticipare la consapevolezza del cambiamento. Grazie davvero a Paolo Granata. performigration.eu è il sito di riferimento per avere tutte le informazioni. L'appuntamento è alle 18 presso il Museo della Storia di Bologna. Ciao Paolo, buon sabato. Grazie, buon sabato a tutti voi. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Mappatura We Start della European Women's Lobby. European Women's Lobby, la piattaforma delle associazioni delle donne europee che promuove i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, ha lanciato il primo progetto di mappatura delle imprese sociali al femminile in Europa. Il progetto sperimentale si chiama We Start e permetterà di conoscere lo stato dell'imprenditoria sociale femminile dell'Unione Europea, favorendo così una maggiore visibilità del settore a livello nazionale e comunitario. Contribuisci anche tu al processo di mappatura di We Start compilando il sondaggio. Il tuo feedback aiuterà l'associazione a cogliere le questioni e le problematiche legate all'imprenditoria sociale femminile e a portarle nelle sedi politiche nazionali ed europee. Per compilare il sondaggio, visita il sito womenlobby.org e cerca il progetto We Start. L'altra Europa. km, 8 tappe, 2 runner e un solo obiettivo: raccogliere rifiuti abbandonati. Questo è lo spirito di Pulisci e Corri, l'Eco Trail partito da Ossa sabato 9 maggio e si sta concludendo in questi minuti, in questi metri, a 20 miglia. Keep Clean and Run, questa manifestazione che fa parte delle giornate europee, appunto, dell'ambiente, e visto che hanno corso per 400 chilometri, hanno ancora il fiato però per essere qua con noi Roberto Cavallo e Oliviero Alotto. Con noi c'è Roberto. Ciao Roberto, benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. Il piattone sta passando. Come stanno i piedi intanto? Malissimo. No, va, sono arrivato e mi sono buttato in questo mare di 20 miglia che ho qua davanti, freschino, ma ci voleva dopo questa corsa. Okay. E poi no, guarda, benissimo. Allora, non è stato un evento sportivo, ma era il vostro modo per sensibilizzare il territorio, sensibilizzare le persone, appunto, all'ambiente e non solo. Che avventura è stata? Che incontro? Allora, hai detto bene, nel senso che non è un'impresa sportiva, anche se per la verità io ho iniziato a allenarmi solo a settembre, non avevo mai corso, quindi un po' di impegno sportivo c'è stato. Però l'impresa vera è che abbiamo incontrato migliaia di persone, ogni comune dove arrivavamo c'erano scolaresche che ci aspettavano e per loro eravamo veramente gli eroi, ma in realtà l'energia e gli eroi erano loro per noi. Abbiamo in ogni posto dove passavamo hanno organizzato delle azioni di pulizia, noi stessi correndo raccoglievamo cosa trovavamo sui sentieri, lo mettevamo nello zaino e a ogni tappa intermedia facevamo vedere cosa abbiamo raccolto. Quindi è stato, credo davvero, quella sì un'impresa, quella dei ragazzi, di chi ci ha aspettato, di chi ci ha accolto in maniera straordinaria ovunque in questi 391-92 chilometri che abbiamo fatto, 400 per dirla. Certo. Roberto, tu sei, se non erro, sei presidente dell'AICA, l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, dico bene? Esatto. E ricordiamo che Pulisci e Corri rappresenta l'evento centrale 2015 della campagna di comunicazione europea Let's Clean Up Europe. Quanta comunicazione, quanta testimonianza, quanta condivisione in questo progetto? Qual era il cuore? Molto, nel senso che, come dicevi tu, che questo evento voluto dall'ex commissario europeo Potocnik, commissario europeo all'ambiente, ma anche il nuovo commissario Veglia ha subito aderito entusiasticamente a questa iniziativa, per cui migliaia di iniziative in tutta Europa, solo Italia 356. Noi col Ministero dell'Ambiente si è deciso di avere una manifestazione, un'iniziativa traino per le altre. Attorno a questa, devo dire, si è creata una vera comunità. Io non sempre avevamo possibilità noi stessi di accedere ai social, perché camminando in montagna spesso e correndo su spesso eravamo in posti dove non prendeva la rete telefonica, però devo dire davvero una grande comunità che con mail, sms, messaggi si è creata attorno, unendone in realtà due, quella degli sportivi che hanno capito che oltre alla performance sportiva c'era un messaggio e quella degli attenti all'ambiente che riscoprono una modalità diversa di fare attenzione all'ambiente come quella dello sport. Io credo che dovremmo ragionare su questo connubio, perché penso che ci potrebbe dare delle soddisfazioni, dei risultati interessanti per entrambi gli obiettivi. Ecco, mi verrebbe da dire uno sport pulito e una pulizia con lo sport. Certo. E avete messo i rifiuti al centro, non solo raccogliere i rifiuti, perché non è quello l'unico messaggio legato ai nostri scarti, e la stessa Commissione europea insomma sta portando avanti nuove politiche per la gestione dei rifiuti, anche di quello avete parlato? Assolutamente, noi allora hai detto bene, perché da Aosta Ventimiglia sostanzialmente, perché l'idea è nata attorno al fatto che una delle priorità della Commissione europea è la Marine Strategy, cioè la strategia sul mare, e nell'ambito di questa c'è il Marine Litter, cioè l'enormità di rifiuti che ormai vanno a mare. Non c'è consapevolezza diffusa del fatto che dei 6-7 milioni di tonnellate di rifiuti che stanno nel mare e negli oceani, il 70% arriva dall'entroterra, non è quello che si butta quando si va in spiaggia o si va in crociera, ma è purtroppo quello che si butta quando si cammina sui sentieri o si butta nelle città. Il primo acquazzone va nei tombini, i tombini vanno ai torrenti e ai fiumi, e i fiumi veicola al mare. Poi certo c'è un effetto concentrazione, un effetto di degradazione, non arriva la bottiglia di plastica intera, ma arriva frammentata, il che diventa ancora più complicato, perché poi è molto più facile che questo entri nella catena alimentare. Mi verrebbe da fare un parallelismo anche solo geografico, essendo io in questo momento a Ventimiglia, si sta celebrando Slow Fish a Genova, però credo che l'attenzione al fatto che un pesce buono, visto che a molti piace, deve parte da un mare pulito. Certo. Su questo credo sia davvero fondamentale attirare l'attenzione. Uh-huh. E un'ultima domanda, Roberto, tu appunto ti occupi di comunicazione, è facile capire barra è facile comunicare quello che l'Europa oggi fa per l'ambiente? Allora io penso che ci sia una consapevolezza positiva del fatto che l'Europa si impegna sull'ambiente, dobbiamo dirlo questo. Nell'ambito dell'Europa, come sempre accade, ci sono alcuni stati membri che sono all'avanguardia e a quelli dobbiamo misurarci. Io credo che quello che abbiamo fatto noi in questi giorni va in quella direzione. Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi delle iniziative positive e di questo vantarci, senza dimenticare che il fatto che purtroppo siamo uno degli stati membri col maggior numero di infrazioni comunitarie. Però abbiamo dei paesi faro ai quali dobbiamo guardare e cercare di proseguire su quella strada, anche in vista della COP21 di Parigi, che credo durante la quale l'Unione Europea dovrebbe davvero battere un po' i piedi, certo, sui tema dell'ambiente, perché siamo i leader al mondo in questo momento, senza ombra di dubbio, per cui dobbiamo continuare su questa strada come europei. Grazie Roberto, vatti a riposare adesso. Grazie davvero, siete stati gentilissimi, un abbraccione a tutti. Ciao Roberto, grazie a te. Grazie. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, come sempre, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Claudia Schiattone oggi in assistenza, Roberta Frisani invece in regia, ha giocato con i tasti. Come sempre ci potete riascoltare sul nostro sito radio24.it, nella sezione L'Altra Europa. Potete scaricare le puntate anche così riguardare, ritrovare tutti i contenuti extra, in particolare gli Europost-it, che sono le nostre segnalazioni e le nostre dritte sulle opportunità europee. Potete anche scriverci, l'indirizzo lo conoscete, l'altraeuropa@radio24.it. ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, collaborazione con Euronet Plus.